Anche se un giorno a Noclesut io diventassi come temo l'aido di belle cadenze, se gli cantassi mi corazon con la voce spaventata di un argentino di Carcassonne. Anche se tendo il bello Antonio, sparo le ultime cartucce per qualche assegno, qualche premio, madama, vado per le spicce. Se mi ubriaco di idromele per presentarmi più virile a certe tarde decorate come dei pini di Natale, io nella mia sbronzografia canterò di elefanti rosa questa mia antica poesia, quella di quando ero Jacquille. Esser bello, cosa vuoi che sia, per un'ora su per giù, solo un'ora, essere bello e via, bello e stronzo per di più. E anche se un giorno a Macao divento sultano di bische e mezzo langue di odalisca, anche se stufo di cantare mi spaccio per mastro cantore e sono gli altri a gorgheggiare. Se vendo ancor più di Boser, del whisky di Clermont-Ferrand, carichi doppio come niente, culi doc, vergini finte. Con una banca in ogni dito, e ogni dito in ogni paese, e ogni paese un mio mercato, sarò comunque deliziato. Quando ogni notte intonerò in fondo ad una fumeria, per tutta la cineseria, la mia canzone di Jacquille. Esser bello, cosa vuoi che sia, per un'ora su per giù, solo un'ora, essere bello e via, bello e stronzo per di più. Anche se un giorno in paradiso divento e ne sarei sorpreso, cantore d'anime volanti. Anche se canto alleluia, pur ripiangendo a piedi lista che non sia stata sempre festa. O se divento un padre eterno, quello che ha sempre un posto al sole, fra Dio ti guardi e Dio lo vuole, anche se portano un barbone. E sarò sempre un po' coglione nel distribuir saluti e baci per fare gli altri un po' felici, ma so che ogni notte sentirò nel mio nirvana all'aldilà gli angeli, santi e Belzebù cantare il mio canto di qui, di quando ancora ero Jacquille. Esser bello, cosa vuoi che sia, per un'ora su per giù, solo un'ora, esser bello via, bello e stronzo per di più.